qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Due 44 minuti primi, ritornano le voci in diretta qui su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Dopo il buon elettrodo con prove tecniche di trasmissione, e quindi benvenute e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di 25 O'Clock. Buonasera, professore. Nuova puntata che, manco a dirlo, anche stasera non è fatta solamente di dischi e noi altri che vi molestiamo, ma una puntata dedicata al tema della delicatezza, del garbo, della gentilezza, dei buoni sentimenti. E quindi più tardi andremo a presentare gli ospiti di questa sera. Personcine delicate e a modo. Il numero di telefono è sempre lo stesso, 06 491750. Il sito della radio raggiungibile al www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale rimanere aggiornati con le notizie, i podcast delle trasmissioni, e sito attraverso il quale potete contribuire a questo progetto editoriale libero nell'etere del 1977 e quindi senza pubblicità, senza padrini, senza padroni. Quindi andate a cliccare su Sostieni. Oppure attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56, 00185, Roma, San Lollo. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info. Nonché le nostre email, e quindi 25 o'clock@ondarossa.info, oppure fantasma@ondarossa.info. Sempre più veloci, eh? Hai esaurito le informazioni prima di... Sì, no, andiamo sempre più veloci. Prossimamente, insomma, con 5 secondi diremo tutto, finiremo anche la trasmissione in maniera ermetica. No, vabbè, mi sto adeguando alle ritmiche di questa sera, eh? Sì, durerà mezz'ora la trasmissione. Sì, penso alle 23:15, 23:20 ce ne andiamo. Sì, no, sì, probabilmente ripercorreremo anche tutta la discografia del gruppo che ci è venuto a trovare questa sera. Sì. Io, professore, non ce la faccio a non citare una persona. Guarda, è incredibile, è incredibile. Non so come si chiama. Cioè, forse nessuno conosce il nome di questo personaggio. L'eminenza grigia di 25 O'Clock. No, tempo fa mi portò questa compilation. Allora, lui deve sempre porre l'accento, insomma. è un personaggio di cultura. E ci grazia spesso e volentieri. Ma io perché non so come si chiama, cioè so che è il conduttore di Niente da Vendere. Niente da Vendere. Niente da Vendere. La trasmissione doppia H hip hop in onda il venerdì alle 2. E niente, insomma, ci portò così spocchioso per volerci insegnare qualcosa come è il suo solito fare. E la compilation è Grind Crusher. E iniziamo così per scaldare un po' l'ambiente. Loro sono i Terrorizer. Questi erano i Terrorizer, insomma, per introdurre il gruppo di questa sera. E benvenuti ai NAID. E ci abbiamo qui una delegazione da parte dei NAID con buonasera. Buonasera, cari. Angioletto. Passato da queste parti recentemente. Sì, sono passato, sì, in altre vesti, però in altre vesti. E Renato, buonasera. Buonasera. E rispettivamente chitarra e... Chitarra, sì, eccomi qua. Diciamo voce. Insomma, da queste parti, insomma, abbiamo avuto il piacere di ospitare diversi gruppi della Tuscia. E questo forse è, ditemi se sbaglio, l'unico gruppo grind di Viterbo e dintorni o... O sì, sbaglio? Sì, ci sono altre espressioni metal a Viterbo, ma sì, questo è indegnamente l'unico gruppo grind di Viterbo. No, dico, quindi all'interno di una Sì, prego. Ha detto attivo perché ce ne sono stati in passato? No, diciamo che Viterbo è una piazza molto ricca da un punto di vista del punk hardcore, una scena storicamente molto forte nel punk hardcore, quindi comunque che nelle orecchie dei punk, degli hardcorers gira come sempre un po' di tutto, anche metal, ma gruppo più spostato sul grind, insomma, che sia esistito credo a Viterbo siamo noi e non ne conosco altri, insomma, dovremmo essere gli unici. Ok, ma come mai questa, nel senso, attingete comunque nelle radici della scena punk hardcore viterbese, o siete totalmente una mosca bianca scollegata dalla scena? No, radici proprio. Soprattutto qui il guru. Sì, perché in realtà poi noi ci picchiamo di fare grindcore, che si pensi che sia solo esclusivamente una musica che affonda nel metal, ma non è niente di più sbagliato. Cioè, chiunque ci vede o ci sente ci dice sempre che siamo troppo punk, e per noi è un complimento, perché si vede lontano, ci possiamo vestire come ci pare, utilizzare le sonorità che vogliamo, ma c'è sempre quella puzza di cantina, di posto occupato, di lotte, possiamo anche dire, anche se al giorno d'oggi forse a volte suona come un parolone, e non ce la leviamo di dosso e siamo proprio molto molto contenti di questa cosa, perché Viterbo è una scena molto fiera, quindi siamo contenti di essere in continuità con tutto quello questo che c'è stato. Chi ve lo dice, insomma, le persone che sono al di fuori della scena punk hardcore, o no, ma anche recensioni, o sì, piuttosto che magari amici o gente, ecco, come dici tu, può essere al di fuori. Quando noi abbiamo avuto anche recensioni abbastanza positive anche su giornali metal abbastanza blasonati, e quello che ci dicono a volte, anche insignendoci di come disco del mese, che comunque ci sono delle sonorità punk, anche se poi, ecco, ascolti il nostro disco è di punk, come è abbastanza trasversale, no? È una cosa un po' un asterisco, diciamo, sì. Anche perché il punk per noi è un grande contenitore, insomma, cioè è una scatola dei giochi e ci puoi mettere dentro di tutto, quello che conta è come lo usi, quello che con un pessimo calco dall'inglese si chiama l'attitudine, ma che in italiano si dovrebbe dire la mentalità. Quello è per noi è il punk. Siamo punk. Punto. Insomma, origini del partiamo dal nome Naid o Naid. Naid, come si dovrebbe dire? Noi Naid alla laziale, diciamo, perché tendiamo a vernacolizzare un po' il tutto. O meglio, siamo talmente tanto abituati alla storpiatura che lo usiamo pure noi, insomma. Io stesso, infatti, spesso dico, ma è Nate. Tu sei ignorante, questa è ovvio. In realtà, è vero. Era già successo in altre interviste, dice, ma qual è la pronuncia? Esatto. Però magari teniamoci le offese per la fine della trasmissione, che cioè vergeranno su un personaggio. Vabbè, poi lo... Ah, sì, mi sa che ho capito. una mancanza veramente pesante questa sera. Pesantissima. Il leader. Noi ci riteniamo offesi dalla mancanza di Capò, il batterista The Naid. Nonché la rockstar The Naid. La rockstar The Naid. Nonché scrittore. Capò, ce la leghiamo al dito. E non solo non al dito. Non scappi lontano. Vabbè, siamo molto vendicativi da queste parti. Insomma, partiamo dal nome. Cosa significa? Da dove nasce? Naid significa, in tedesco significa invidia, livore. La nostra prima chitarrista, nonché membro fondatrice del gruppo, prima che subentrasse il qui presente Angioletto, era una ragazza che prima ha rovinato tutto io. Insomma. No, era una ragazza di origini tedesche, quindi noi cercavamo un nome che fosse in una lingua non convenzionale per i nomi delle band, quindi non il solito inglese. E cercavamo un nome che fosse corto e d'impatto, insomma, quindi dopo mille parole buttate a caso, come si fa sempre quando si sceglie il nome di un figlio, questa ci è piaciuta, l'abbiamo utilizzato semplicemente per questo, più un motivo fonetico. Però che non altro. Siamo invidiosi alla fine, no? Non siamo così invidiosi. Può essere utile pure, tra l'altro, nelle interviste, perché serve per rompere il ghiaccio, no? Perché se vi chiamate con un nome comune, ma nessuno avrebbe chiesto perché. Sì, questo infatti sì, infatti sì, infatti sì, sì. Tutto penso, studiato. Non penso che tanti conoscono il significato di questa prova, in realtà. No, intanto, insomma, lo studio e la tecnologia di Radio Onda Rossa prende vita, insomma, per dare l'accento, insomma, con fischi vari. Ma è giusto, ci siamo abituati. È in puro stile che la incorre, avere riverberi, fischi e rumori vari. Viene naturale. Rumori vari. Va bene, io direi subito di far ascoltare qualcosa che dopo ci avete portato. Che vuoi sentire? Voi. Ci proviamo. Allora, con cosa iniziamo? Angioletto. Vada, allora, è il tratto dall'ultimo disco che è uscito, uno split con gli Agatocles, More Gain, More Pain. Il pezzo si chiama Fase Replicativa. No, l'hai detto un po' così, non uno split con gli Agatocles. Insomma, cioè, vogliamo raccontare con un paio di parole, se è possibile, chi sono gli Agatocles. Beh, per chi non li conosce, sono un gruppo storico, sono il gruppo che nel Guinness World of Records ha il maggior numero di split, cioè per chi non sa che sono i dischi che si fanno con altre sì, formazioni, esatto. Sono quelli che hanno di più al mondo. Sono un storico combo belga e sono da 30 anni che suonano, sono no, forse, circa 30 anni che suonano, sì. 35 se non sbaglio, sì. E abbiamo avuto l'opportunità, come tante altre band, proprio perché loro sono molto prolifici da questo punto di vista, sono stati così carini da fare insomma uno split con noi, ecco. Bene, allora questa è replicativa. Fase replicativa dal split degli Agatocles, loro sono i Naid. Insomma, da tradizione grind, insomma, la durata dei pezzi difficilmente supera il minuto, insomma. È una musica precox, potremmo dire. Split uscito nel 2014. Nel periodo di Pasqua abbiamo fatto uscire, tra l'altro, questo pezzo. Infatti mi ero dimenticato di dirlo, ma ecco qui questo. Punitemi. No, e questo brano abbiamo sentito che ci sta una partecipazione dei Rabid Dogs. Ci hanno partecipato con noi sul testo, hanno fatto una parte vocale sulla chiusura del brano. Tra l'altro grande band italiana anche loro. Grandi in tutto. Persone fantastiche, infatti, carinissime. È un'autoproduzione questo split? Sì, è un'autoproduzione, ci sono state una coproduzione più che altro, un po' di etichette italiane, Zas, la Don Carlos dei Rabid Dogs stessa, e la Everyday 8 che è polacca, che ha partecipato come unica etichetta straniera nella coproduzione. E le copie sono smazzate via così. Finito, non c'è più. Ci sono rimaste una decina, se non dico cavolate. Potenza, insomma, del nome Agatocles, insomma, non del nostro, certamente. Infatti, grandi Agatocles, merito anche loro. No, ma aggancio a questa alla storia, insomma, delle coproduzioni. Volevo sapere, insomma, farvi raccontare se è una scelta forzata il fatto di dover coprodurre un disco oppure di autoprodursi un disco. Com'è la scena attuale italiana, insomma, ed europea per quanto riguarda il grind? Ci sono etichette che producono band? È facile, insomma, farsi produrre il disco? Oppure vi piace far da soli, insomma? Beh, un po' la risposta è abbastanza complessa quando si parla del do it yourself, delle autoproduzioni, perché noi iniziamo come gruppo autoprodotto da sempre, proprio per mentalità punk, perché così si faceva quando noi, insomma, eravamo ragazzini negli anni 90, ecco, queste sono le nostre radici. È pur vero che benché nel mondo delle piccole label indipendenti oggi è più difficile farsi produrre, per un semplice motivo, perché mancano i soldi, perché viviamo in un periodo, è brutto dire di crisi economica, non è una crisi economica, questo è proprio un cambiamento di paradigma economico, e quindi ciò che prima forse era più difficile, perché non esisteva internet, non ci si poteva mettere in contatto, oggi siamo facilitati da un punto di vista dei mezzi di comunicazione. D'altro canto i mezzi economici non sono più così potenti. Per noi sì, è una scelta non forzata, perché ecco, a noi piace l'autoproduzione e è una logica che capiamo, che ci sentiamo insomma addosso, abbastanza tagliata bene. Certo, d'altra parte molto spesso l'autoproduzione, qui mi farò un sacco di nemici, è una foglia di fico per quelli che non se li vuole comprare nessuno, nel senso, cioè noi ci autoproduciamo, cioè perché noi non ci vendiamo, capito? Ma chi te compra? Cioè, ecco, noi per esempio non siamo così bravi da poter aver avuto questa scelta, cioè dai, avevamo una proposta, che ne so, da Sony, invece ci siamo autoprodotti perché siamo puri, no, ci autoproduciamo sia perché ci piace come sistema, come meccanismo, ci dà grande rapporto umano, perché le persone che ci autoproducono spesso, che ci coproducono, sono amici o conoscenti, e anche perché è così, è di fatto una scelta non forzata, ma una scelta strutturale, congiunturale, cioè o si fa così o i dischi non si fanno, cioè, oppure uno si registra e si mette su internet e basta, altro non c'è. Cioè, per produrre un supporto materiale che costa soldi, cioè, questo è un modo ed è il nostro modo. Però è il vostro modo, insomma, anche perché naturalmente, insomma, si è parlato prima di origini, insomma, di nascere da una scena, insomma, dove l'autoproduzione, il do it yourself era una cosa naturale. Hai parlato anche, insomma, dei tempi che stanno cambiando, di un paradigma nuovo economico, insomma, che stiamo vivendo. Volevo sapere se visto che il grind, insomma, ne stavamo parlando prima a microfoni spenti, è un po' un genere che si frappone tra due mondi che apparentemente potrebbero essere differenti o separati, insomma, come può essere l'attitudine punk hardcore o quella metal, insomma. Volevo sapere se il discorso dell'autoproduzione, dell'esigenza di autoprodursi alla fine, perché non ci sono etichette ed è difficile prodursi il disco, se si sta cambiando anche il modo di prodursi il disco negli ambienti metal, insomma, sta cambiando un po' anche lì, cosa state osservando? Beh, io penso anche che comunque sia, ci sono anche agenzie proprio, cioè diventa un lavoro a quel punto, io penso. Abbiamo molti amici che comunque sia fanno parte di band che suonano a livello nazionale e internazionale, ma lo fanno, ecco, in un discorso comunque più commerciale, cioè lì ci sono delle agenzie dietro, ci sono persone che lavorano, c'è pubblicità e tutto il resto, è come se fosse una grande catena, sì, certo, esatto. Perciò anche lì penso sì, ormai ci stanno, anzi, soprattutto nel death metal, che forse oggi è un po' più diventato una nuova fonte di mercato, forse sì, più commercializzabile, stranamente, non so, perché comunque è sempre musica da, non la chiamiamo da mostri, perché so. Parli sempre del supporto disco, del prodotto anche, fisico. Anche a livello concerti ci sono agenzie, cioè non è detto che ci sta sia il do it yourself, perciò anche il muoversi nei live che te li fai tu da casa, cioè noi nel 90, nell'80% dei casi noi stiamo lì, ci facciamo un mazzo così da casa, organizziamo tutto e andiamo. Ma ci stanno anche delle persone che lavorano, cioè che potrebbero offrirti delle cose per poter lavorare con te, e si crea, a quel punto diventa un mercato. Non è detto nemmeno che sia sbagliato, perché no, cioè. Poi è un discorso differente, semplicemente un'altra vista di come procedere. Dipende anche da dove uno poi vuole arrivare, non nel senso di carriera, proprio dove vuole arrivare, proprio fisicamente, geograficamente, perché noi siamo resi conto, siccome utilizziamo il nostro gruppo anche per riuscire a uscire dall'Italia, da quelli che sono un po' i confini canonici, se si vuole andare oltre, molto spesso la rete, la grossa rete del do it yourself in molti paesi del mondo non c'è, quindi o si passa tramite canali più ufficiali, istituzionali, chiamiamoli come vogliamo, oppure semplicemente in certi paesi non si suona, tutto qui. Noi potendo preferiamo molto di più questo approccio dal basso, in cui magari rimaniamo, conosciamo le persone, sì, siamo in contatto noi, però non sempre è possibile. Piuttosto che non suonare, preferiamo, ecco, suonare. Certo, sono sempre situazioni che ci piacciono, che non ci comportano condizioni capestro, Ma ecco, da questo punto di vista ci siamo sempre trovati piuttosto bene, sia nelle situazioni più ufficiali che in quelle più, insomma, basate casarecce. Su più casarecce. Non abbiamo problemi. No, io sono un po' lo spiritello cattivo in queste cose, per cui mi piace inserire. Mi sembra che con questa risposta ti sei acchittato una prossima domanda, però. Del tipo? No, vai, sparami. No, adesso vuol dire. No, vabbè, ma c'ha il piacere di il professore di stimolare la mia dote telepatica che è totalmente assente, quindi vabbè, poi mi fa fare la figura del merda davanti a tutta Roma adesso, dai, capito? No, vabbè. Non davanti, dai, non c'è video per fortuna, insomma. No, ma falla sta domanda. No, vabbè, no, nel senso che te parlavi a un certo punto, quando si parla di Ned, alla fine, anche guardando semplicemente la discografia, insomma, lui si è acchittato la domanda, nel senso che ha detto noi abbiamo la fortuna di utilizzare la band per organizzare alcune cose, e poi ha continuato con l'esposizione dicendo quello che mi interessa. Ecco, è importante ricordare che i Ned appunto escono spesso e volentieri dai confini della Tuscia, sì, da quelli anche del suolo patrio, diciamo. Siamo un gruppo schifosamente turistico, ecco, noi questa cosa che bisogna essere no viaggiatore, no turista, come tu fossi, cioè, siamo terzani, no, siamo turisti proprio, cioè noi suoniamo per viaggiare o suoniamo... Io tutti i posti che ho visitato nella mia vita l'ho fatti suonando, cioè se no sto a casa a bere con gli amici, ma che me frega, cioè. Vabbè, insomma, ecco, almeno una volta l'anno cerchiamo di uscire, insomma, se possiamo, con piccoli tour internazionali, insomma, questo sì, ci piace. E quindi dove siete stati? Allora in Europa, che è di più facile, insomma, raggiungibilità, andiamo, insomma, spesso anche per toccate e fuga nei fine settimana, abbiamo suonato un po', insomma, in tutta Europa, nell'Europa dell'Est soprattutto, e poi il tour che ci facciamo estivo, quelle classiche quando la gente va al mare a farsi le ferie, noi andiamo a fare i mostri per 15-20 giorni in vari posti. Siamo stati in Indonesia, Malesia, Singapore, quindi tutta l'area del sud-est asiatico. Siamo stati due volte, abbiamo fatto tour in Russia, negli Stati Uniti, e poi l'ultimo nato, il tour dell'anno scorso a Cuba. Abbiamo fatto tour in tutta l'isola di Cuba. Siamo molto orgogliosi di Cuba, diciamo la verità. Orgogliosissimi. Cioè, siamo stati la prima band italiana, metal e che sia, a suonare a Cuba, perciò. E abbastanza anche, non tanto per l'est Europa, nemmeno in realtà per l'estremo oriente, che diciamo mi è capitato pure a me di frequentare, e conosco che in realtà, al di là di quello che può pensare il luogo comune, invece c'è una scena fervida proprio intorno al metal, sì, eccetera. Sì, veramente sì. E fervente. Invece quello che è un po' più sorprendente è il paese appunto della salsa, del ron, è una del cosa merengue, stranissima, insomma, a vederla. Però è stata una bomba, perché i concerti, in realtà tu pensi invece il paese della salsa e della zumba, non lo so, poi e poi in realtà i concerti minimo 600-700 persone a sera, perciò insomma meglio di così. Benissimo. Insomma, cioè, ci sono amanti del grind, delle sonorità estreme proprio nella gente di Cuba, insomma. Delle sonorità estreme possiamo dire di sì. Certo, quello che arriva a Cuba non sempre è tutto quello che abbiamo qui. La scelta musicale è limitata, perché comunque, insomma, no, ci sono delle piccole difficoltà, insomma, nel reperire anche materiali musicali, però il pubblico è molto colto. Se c'è una cosa che non bisogna insegnare ai cubani è la musica. Nemmeno la musica brutta come la nostra. Abbiamo trovato gruppi locali fortissimi, soprattutto batteristi, uno dei batteristi eccezionali. La sezione ritmica cubana, diciamo che... Non si batte. Mi ricordo molti, molti anni fa, erano particolarmente ferrati, erano rimasti un po' indietro, diciamo, le nostre discussioni. Poi vabbè, dipende con chi parli, perché magari parli col Pischello invece, che è aggiornatissimo, perché poi in realtà loro sono in grado di rubare tutto dalla rete, insomma, fanno delle cose grandiose. Adesso è tanti anni che non ci torno più. Però erano espertissimi, ad esempio, sul progressive. Loro sapevano tutto del progressive anni 70 internazionale, e anche di quello italiano, anche cose che noi non conoscevamo. Sì, loro della cultura italiana sono ferratissimi. Alcuni parlano italiano meglio di me, senza mai essere stati in Italia, per sport. Perché parlo italiano? Perché mi piace. Questa è la risposta che danno a Cuba. Il livello culturale che abbiamo trovato è stato altissimo. Per quanto riguarda la musica, abbiamo notato che c'è una specie di cesura, cioè loro arrivano più o meno progressive hard rock, poi ci sta uno stop in cui il punk è un figlio più o meno sconosciuto e poi si riprende con tutte le sonorità più moderne del deathcore, insomma tutte queste cose un po' più, diciamo noi in gergo, pettinate, un po' più modaiole che vanno adesso. Ecco, quindi forse noi siamo stati un po' una scheggia impazzita a Cuba, perché in realtà il nostro, la nostra forma di metal, che è fortemente ibridata, fortemente figlia dell'hardcore, altrimenti il grindcore non ha, probabilmente non sarebbe nato, per loro è un po' un mostro strano, non sanno come muoversi, non sanno proprio come proprio il pubblico, non ho come muoversi in senso metaforico, proprio come muoversi in senso fisico ai concerti, non sì, sì, sono delle sonorità che per loro erano totalmente aliene, però essendo, ecco, gente molto colta musicalmente, apprezzavano, cioè, secondo me tu hai fatto questo, questo e questo, perché sì, osservavano veramente tutto, tutto, tutto. Abbiamo dato un pubblico molto colto, forse il pubblico musicalmente più colto, vabbè, che abbiamo mai incontrato. Abbiamo incontrato tante persone esperte in musica estrema, proprio. Quindi probabilmente ci sarà il primo o il secondo gruppo grind cubano da qui a 6 mesi, insomma. Sì, probabilmente. Abbiamo già visto che ne hanno di tutti i tipi, cioè, a Cuba gente non lo sa, c'è black metal, c'è death metal, death ci metal, stanno molto death metal. Sì. Quindi ecco, di una cosa siamo certi, non abbiamo quasi nulla da insegnare per quanto riguarda la musica. Dobbiamo ai reperire materiali. Eh sì, no, sì, ma avete reperito qualcosa? Sì, uno dei nostri rodi è il chitarrista del più famoso gruppo metal cubano, che sono gli Zeus. Insomma, sono gente che suona da 30 anni a Cuba e sono veramente, veramente forti. C'è gente ultra professionale. Allora, visto che avete un po' girato il mondo con il vostro grind, volevo chiedervi se a livello di pubblico, durante questi eventi avete avuto la percezione che erano eventi fruibili da tutta la popolazione, per quanto riguarda l'Indonesia o la Cuba, o Cuba, oppure erano non so, magari eventi troppo costosi per tutti, magari qui siamo abituati magari di poter avere la fortuna di vedere Inade andando in uno squat con una sottoscrizione spesso libera o insomma per pochi euro. Volevo sapere insomma come erano a Cuba. Era tutto il festival gratis. Abbiamo fatto 8 concerti, erano tutti gratis, perciò la gente veniva folle. A volte abbiamo suonato in dei posti enormi, in delle piazze enormi, proprio che noi saliamo su sto palco e dice: ma come fai a riempire tutto sto posto? Invece piano piano la gente cominciava a venire. Comunque lì è sempre festa, perché comunque è paese tropicale, è sempre estate, la gente ce n'è tantissima. E venivano sia esperti di musica o estrema e non famiglie, bambini, ma venivano anche famiglie, anziani. Esatto. Quindi festival liberi, insomma, liberi, esatto. A tutti. Cioè, sembrava i nostri vecchi festival dell'unità, insomma, tu uscivi da casa e andai a vedere quello che c'era in città. E che capitava al Brutal Summer Fest, era il titolo il nome del tour che abbiamo fatto. E la gente veniva di ogni tipo, in realtà. È capitato, è così, ha detto, anche famiglie che venivano lì e se sentivano un po' di musica. Pure loro esperti, zitti tutti. Sì, no, parlando col cubano medio, ecco, magari è un esperto di opera, uno che suonava, che ne so, il violoncello, eppure è una persona totalmente, ecco, inaspettata come nell'aspetto, ma veramente è una bellissima esperienza. Vabbè, aggiungo, perché poi sono pensieri belli che mi fate venire, bei ricordi, eccetera. Insomma, quando andai, io tra l'altro mi ammalai. E la mia compagna girò per vari posti per reperire medicinali, eccetera, eccetera. E fra le altre cose, insomma, faceva un po' d'accompagnatrice nella bambina dentro una scuola, eccetera, eccetera. Entrata dentro la scuola, ha detto: Madonna, sono entrata dentro la scuola, ma non pare una scuola, pare un centro sociale. Stanno tutti a suonare, i ragazzini che cantano. Beh, è una cosa, quindi, una cosa, cioè, non c'è nulla da stupire. È un elemento proprio dell'istruzione, nemmeno voglio dire della cultura, cioè vengono proprio fomentati a fare sta cosa. No, l'arte e l'istruzione, insomma, è una cosa di livello molto alto, per quello che abbiamo visto. Il sud-est asiatico, pure, dai, mi incuriosisce, yeah. Qualche parola. Il pubblico più fuori di testa, ma del mondo. Tra l'altro aggiungerei, cioè, su YouTube ci stanno tutti i live report dei nostri tour. Chi vuole può andare a vedere proprio la realtà di queste, nonché, di queste nonché situazioni. Forse sempre su YouTube mi pare di averlo visto. Un'intervista, yeah. Alla TV di Stato cubano. Alla TV di Stato cubana. Al pomeriggio 5 cubano. Sì, c'era Barbara D'Urso della situazione. Molto più carina, molto più simpatica. Ma immagino non c'ero, c'eri tu quel giorno. Ci vuole poco, nel senso, non è un gran complimento per la bravissima e preparatissima giornalista cubana che, beh, sapeva tutto di noi ben prima che andassimo là, perché giornalismo insomma vero, non prono come siamo abituati qua. Quella giustamente era preparata, aveva fatto delle domande molto pertinenti, non trattandoci come la solita curiosità antropologica, ma facendo delle domande adesso conosciamo il mostro. No, non c'è stato questo tipo di approccio. No, assolutamente, assolutamente, una mentalità molto aperta in un programma contenitore che era veramente come il nostro programma pomeridiano che possono guardare le famiglie. Infatti mi fermava la gente per strada e faceva: oh, ma tu sei Renato, t'ho visto in televisione. Io: oh, grazie. Anche perché essendo canale unico, insomma, lo share era ovviamente altissimo. E invece no, stavo anticipando il professore con la domanda sul sud-est asiatico, di differenza insomma di accoglienza rispetto a quello che avete visto a Cuba. Il sud-est asiatico è una popolazione pazzissima in tutti i sensi, dal traffico per strada, nelle strade tipo Giacarta, che io mi sono spaventato da come era il traffico qui a Roma. Voi gli fate proprio, cioè, siete nessuno a confronto. I concerti lì erano veramente da pazzi, perché estremi. La gente estremi, cioè la gente era impazzita in tutti i sensi proprio. Cioè, io mi ricordo una scena che hanno cominciato a fare stage diving anche dalla paletta della mia chitarra per lanciarsi su, cioè fighissimo. E a livello di organizzazione degli eventi nel sud-est asiatico, a differenza di sono, Cuba, sono molto roots gli eventi nel sud-est asiatico. C'erano, no? Anche delle cose più casarecce e altre pure messe, no, nel senso, ma magari, cioè, abbiamo delle difficoltà qua sul territorio nazionale a far venire il gruppo dal nord Italia per spese e cose varie. Immagino per l'organizzazione di un evento del genere, invitando un gruppo dall'Italia, insomma, ci sono delle spese non indifferenti. Sì, diciamo che il popolo, insomma, il sud-est asiatico, paesi dei quali insomma ho esperienza anche per motivi personali, sono popoli di, può sembrare uno stereotipo, ma di enorme generosità e di ospitalità. Il nostro più grande e cospicuo pagamento è stata l'ospitalità, e conoscere insomma paesi e vedere posti. Siamo capitati in villaggi all'interno dell'isola di Giava, in cui credo che bianchi, con tutto che Giava è molto turistica, credo che non ne avessero visti mai. Ci accoglieva tutto il villaggio, le solite cose, le foto, insomma. E poi, ecco, questo forse è il dato principale, le persone, perché, ecco, se noi andiamo all'estero è per vedere le persone, cioè i luoghi li possiamo vedere pure su una bella foto in alta risoluzione su internet, le persone no, quelle no. E il pubblico, sì, il pubblico sud-est asiatico è il pubblico più fuori di testa che abbiamo mai visto, sono veramente. E poi, ecco, a differenza di molti altri paesi dove siamo andati, proprio questo genere, cioè il grindcore, il death metal, vanno fortissimo, e non nella loro forma melodica o commerciale, proprio nella loro forma estrema. Cioè, perfino l'attuale presidente dell'Indonesia, quando parla, cita i Napalm Death o altri gruppi. L'ho visto, cioè, anche delle foto sue con la maglietta dei Napalm Death in foto ufficiali. Perfetto. Cioè, è un genio, cioè veramente. Parliamo di un signore della cinquantina d'anni. Sì, peraltro. Sì, no, ma detto, tra l'altro, non siete l'unico gruppo proprio dall'Italia che visita il sud-est asiatico. No, ci sono stati vari, sì. Forse sì, anche Buffalo Grills anche? No, no, gli Europeans. Infatti. Mi ricordo qualche leggenda di cinghio, insomma, forse con gli Europeans. Sì, esatto. Beh, immagino, cioè, se a noi a livello underground ci hanno aperto casa, ma poi le situazioni fighissime con certi, figuriamoci a loro, che comunque era una cosa anche molto più promossa, più spinta, promossa bene anche a livello più, penso, più mediatico, perciò sarà stato il delirio, immagino tutto. No, immagino le avventure enogastronomiche di cinghio, vabbè, questa è una. Esatto. È rimasto insomma l'Est Europa e la Russia. La Russia per lì non giocano. Sì, altre caratteristiche buffe, interessanti, appaganti per quando si va a suonare. Certo, rispetto agli altri posti dove siamo stati, abbiamo sempre, se non quasi sempre, suonato in locali dove si pagava per lo standard russo un biglietto abbastanza cospicuo. Quindi noi non siamo politologi, ma abbiamo avuto la percezione che potessero accedere ai concerti non tutti, insomma, fosse una cosa abbastanza selezionata. E però, ecco, anche lì il pubblico molto reattivo, un pubblico molto colto e incredibilmente un pubblico composto a volte per metà, se non tre quarti, da insomma donne, signore, ragazze, che ascoltavano questo genere musicale, ne capivano, ecco, con la stessa partecipazione che qui ci si aspetterebbe banalmente in una discoteca anche abbastanza commerciale. Si veniva tranquillamente al concerto Grindcore, si faceva serata e bevendo alla russa, insomma, come solo loro sanno fare. Olè, proprio, cioè. immaginiamo. No, non immaginate, in Russia nei giorni off, quando non si beve, è mezzo litro di vodka al giorno quando si va in tour, almeno per noi, questa è la nostra esperienza. Da lì si sale. Va bene, dopo un po' di chiacchiere, passiamo a un altro pezzo. Yeah, dicevamo con Renato di fare anche un passo nei vecchi dischi, che così facciamo pure vedere altri tipi di scrittura dei brani e tutto il resto. Sullo split dei Charlie 2008, sì, se non sbaglio. Pronto? Sì, sì. Yeah, Vendetta dei Sensi, che non so, io ho pensato un po' di pezzi a sto disco, se vuoi metterli. Va bene. Sì, tra l'altro c'è anche una cover dei Peggio Punks, La mia vita. Ah, insomma, già. Infatti, proprio perché non ci scordiamo le nostre radici. Perché non ascoltiamo proprio le due? Sì. Allora, facciamo Vendetta dei Sensi e Vendetta dei Sensi, La mia vita. La mia vita. Cover, sì, noi in ogni disco mettiamo una cover. Ma i Charlie non suonano più? No, ce ne sono sciolti. Erano di Roma o sempre area Viterbo? Bracciano. O Anguillara, non so, adesso non mi ricordo. E quindi dello split Nade Charlie, Vendetta dei Sensi. Insomma, qui dallo split Night Charlie abbiamo ascoltato tre pezzi. Quest'ultimo era Prigione di Nulla. Insomma, vi volevo chiedere, insomma, per le vostre esperienze, venite dal mondo punk hardcore, avete avuto la possibilità di suonare sia in squat, centri sociali, che locali, insomma, in giro per il mondo. Quali differenze avete notato tra il mondo do it yourself e quello che non viene, insomma, da queste esperienze, da questa tradizione? Sul discorso affinità e divergenze che ci possono esserci tra suonare in un locale, perché di questo si parla, e suonare in uno squat, potrebbero essere moltissimi a parlarne per ore. Da un punto di vista strettamente tecnico è che insomma negli squat noi abbiamo, soprattutto in Italia dove siamo insomma abbastanza conosciuti, abbiamo un sacco di amici, per noi è come suonare a casa, è come suonare in famiglia. Abbiamo una famiglia allargata che sta un pezzetto a Milano, un pezzetto a Bologna, tantissimo a Roma, perché anche se siamo di Viterbo suoniamo a Roma una volta ogni due mesi circa. E quindi ecco, c'è questo, sempre questo afflato umano che per noi è potentissimo, e poi negli squat ci spinge a volerci suonare. E anche per il fatto che, parliamoci chiaro, cioè a Roma gli squat sono molto più frequentati dei locali molto spesso, cioè quindi si ha occasione di vedere gente che ci piace e più gente. E c'è da dire una cosa, e qui faccio proprio un appello, immediatamente, tecnicamente, ragazzi, gli squat non si sente un cazzo, cioè quindi ecco, quando uno va a suonare un po' questa cosa, a Roma ci sono delle ottime eccezioni a questo stereotipo, perché abbiamo suonato in posti dove anche noi come musicisti siamo stati soddisfattissimi. Però ecco, l'unico forse cosa che possiamo dire in più che ci può piacere in un locale, e parlo soprattutto della situazione italiana, è che nei locali abbiamo una siamo acchittati a livello di sound un pochino meglio. Però ecco, noi preferiamo tendenzialmente in Italia suonare nei posti occupati, questo almeno è il mio pensiero, sia per da dove vengo io politicamente, sia per proprio una questione di benessere, di buona pratica. Quindi magari da una parte c'è una qualità del suono maggiore, però dall'altra una partecipazione di pubblico più viva, più sanguigna, senza dubbio, sai? Almeno questo è il mio pensiero. Una cosa completa l'altra alla fine, non è che ci deve essere per forza. Tante band magari nemmeno conoscono la realtà degli squat, e magari tanti non ci suonerebbero nemmeno, dice no però non sento niente, allora va a fare le prove in garage per migliorare la tua tecnica, per carità, bella per te, nessuno te lo vieta, però insomma secondo me si perdono anche un pezzo di esperienza in generale proprio, anche di vita, cioè perché comunque noi ci viviamo così, cioè. Sì, gli squat e il punk, ragazzi, vi servono sempre sorprese continue. Quando uno pensa di averle viste tutte, noi siamo contenti, perché il punk inventa e ingegna sempre nuove soluzioni e prassi di vita che per noi sono fantastiche. Strane. Strane in che senso? Avviso ai punk: quelle che vedete per terra non mangiatele, non è roba da mangiare, è veleno per topi e non è droga. Per esempio, cartelli così. Quando io vedo un cartello così, io rimango contento per 3-4 giorni, poi lo racconto agli amici. Insomma, sono proprio. Da faccio una copertina di un disco. Sì, no, sì, ma sì. Di queste cose noi ne abbiamo proprio centinaia. Insomma, cioè... certo, volevo fare pure noi un libro alla fine di queste cose. Sì. Sopravvivenza negli squat, insomma, manuale di sopravvivenza. In alcuni squat. I 30 migliori squat d'Europa. Vabbè, dai, invece il peggiore squat dove siete stati in vita vostra. Mamma mia, a livello umano, a livello di schifo, di disagio, di feccia. E quindi il migliore. E quindi da paura. No, non so, veramente non saprei dire. Anche infatti, perché quelli italiani adesso, molto ruffianamente, probabilmente ci dobbiamo risuonare, quindi tutto bellissimo. tutto. Sì, magari poi, ruffianamente, cioè... sì, però magari ruffianamente, se dici una cosa del genere. No, ma viene apprezzato. C'è quella puzza che noi abbiamo identificato, che è misto tra cherosene, birra calda e cane bagnato, che cioè per noi quella è caratteristica. Quella è la puzza di casa. Cioè per noi è la puzza di casa, insomma, quindi siamo è un riconoscimento olfattivo particolare. Quando noi abbiamo ritrovato questa cosa, per esempio, a Kuala Lumpur in Malesia, dico cazzo, siamo in uno squat, siamo a casa, cioè. Vedi, genuinamente non è un modo di dire, perché sai, ma questa cosa che apprezzo il trash, no, ero proprio contento, ero a casa mia. Ma questa cosa è particolare, perché magari c'è chi fa corsi da sommelier, no? Per riconoscere in quel vino la fragranza floreale del glicine, e invece in Hyde sono riusciti insomma a trovare questa caratteristica olfattiva. Quindi se invitati in Hyde, anzi, per qualche iniziativa, insomma, a qualsiasi scopo, per farli sentire a casa, premunitevi di gasolio, buona canica di gasolio, un cane bagnato, un cane e della birra calda dell'Eurospin, della pioggia e della birra calda della carrucola. Tu che sei descrittivo. Sì, no, abbiamo visto una cosa fantastica. Arriviamo in questo, è una delle nostre preferite. In questo posto a Firenze che si chiama Riottosa, e praticamente in un palazzetto che sembra una vecchia casa cantoniera, e vediamo che praticamente le scale sono troppo piccole per portare sulla backline. Cioè, ma dove cazzo, come facciamo, come non facciamo? C'era una finestrella, un bugigattolo, e tiravano giù con una corda e a mano, con una carrucola a mano, salivano la backline, compresa casse, testate, insomma, tutta roba nostra, capito? E noi abbiamo detto, vista questa cosa, cioè l'ingegno del punk non ha limiti, cioè se abbiamo visto questo praticamente tutto può essere. Io sotto mi stava a fare il segno della croce, perché se iniziamo così, insomma, noi le adoriamo. Tra l'altro un concerto bellissimo, peraltro. Sì, infatti noi le adoriamo queste cose, cioè fantastico. cioè, noi andiamo in giro per avere aneddoti da raccontare. Bene, bene. Sì, tra l'altro, no, tra l'altro l'intervista più lunga con le tracce più corte che abbiamo mai fatto. Meglio così, insomma, è stimolante. È una cosa compensativa, diciamo. Ma ne ho segnate, se vuole. Ah, ne hai segnate? Bene. Ho segnate perché. Sì, vai, depenna, sì. Vai. Un'altra cover, diciamo. Un'altra cover? Yeah. Sì. Non siamo un gruppo cover comunque. Però ci piace tanto sta cosa, perché un po' si è perduto questo gusto di fare cover. Noi ci divertiamo come dei pazzi. E quindi ecco, praticamente in ogni nostro disco cerchiamo di inserirne almeno una, perché poi dal vivo ci piace molto. Ovviamente a modo nostro, insomma, quindi quando riusciamo a omaggiare qualche gruppo. Perché il senso di fare una cover è che o la fai uguale, che tu ti dici, oh, mazzo, proprio uguale. Oppure cioè, fai, oh cazzo, è totalmente diversa, però si sente uguale che quella. Quindi insomma, ecco, il nostro modo è quell'altro, perché a farlo totalmente uguale non siamo capaci in realtà. Però ce l'ho avuta questa scusa. Ce l'ho avuta questa sensazione, insomma, di scorrendo un po' nella vostra discografia, ascoltando le vostre cose, che siete cioè in pratica registrate, fate i dischi. Ci ho avuto la sensazione per prepararvi le scalette, insomma, ho avuto la percezione, insomma, di capire, insomma, che come la costruzione delle vostre scalette live, più che la produzione di un disco da in cui è curata magari troppo la produzione. Beh, entrambe le cose. Questa è una mia percezione. Beh, no, certo, certo. No, i discorsi dello studio, della produzione in studio, cioè io in particolar modo ci tengo molto, perché comunque sia già un discorso di comunque musica caotica e tutto, del caos, non music, come si diceva, no? Perciò, insomma, bisogna fare un lavoro a puntino. E io e Emiliano Natali, il produttore che ci ha fatto i vari dischi da quando sono entrato in formazione, ci siamo fatti un mazzo tanto per poter lavorare, ecco, su questo lato. Però insomma, dopo quello lo devi riproporre in scaletta, perciò le cose sono collegate, perciò è ovvio che devono essere lavorate parallelamente. Non siamo uno studio project, insomma, siamo un gruppo che ci attacchi e sole sotto proprio di noi e andiamo e facciamo noi un... insomma, esatto, punto e basta. Insomma, questo era il punto. E avevamo anticipato una cover. Yeah, forse un po' blasonata, ma noi l'abbiamo fatta uguale. Io non c'ero su questo disco, è sullo split sempre. Lo trovo. Os. Eccolo. Sì. Ed è una canzone che hanno rifatto tutti, quindi proprio noi, perché venendo dal punk, il punk è banalità, fieramente banalità. Questa cover si chiama Nazi Punks Fuck Off. Che è una. Abbiamo fatto pure la scenetta. Nazi Punks Fuck Off, che bomba. Vabbè, assumeteci. Di un gruppetto, insomma, un gruppetto, lo vogliamo sì. dire. Sì. Chi Dead sono? Kennedys. E questa è la versione di Naid. Troppo veloci, qui stavamo preparando qualcosa ancora. Naid o Naid, Radio Onda Rossa 25 o'clock, ci siamo, eccola là. That is made, it was made by next one is a very very very old one. That is made, it was made by a group that we really love, is that group here. Yeah. Yes. It's called Iron Maiden. Yeah. Really? Yeah. Yeah. Insomma, qui il delirio di Mosca. Non te l'aspettavi, no? Questo? No, no, ma non me l'aspettavo, era proprio no. Un gruppo italiano che fa una cover degli Iron Maiden a Mosca fa ride parecchio. Insomma, no. Questo infatti era live di Mosca, Stronger Than All. Questo uscito live fatto nel 2013. 2013, sì, ce l'hanno registrato e noi l'abbiamo pubblicato in pochissime copie, tra l'altro. Quindi avete visitato la Russia in temperature accettabili. Sì, sì, vedo d'estate, che era 17 sì. agosto. Sì, sì, ma... infatti la copertina vedi. A petto nudo, insomma, un fantastico angioletto. Senza sciarpette. Pure perché abituati normalmente ai nostri viaggi in zone tropicali, insomma, andare a Mosca magari il 17 di gennaio non fa per noi. No, diciamo che no. Però no, si parlava qui a microfoni spenti con l'aggancio, insomma, della cover degli Iron Maiden. Gli abbiamo, insomma, chiesto ai Naid se erano stati contenti di Placcaggio, che avete fatto una cover di Iron Maiden, visto che loro sono l'araldo del metal classico, no? Del metal punk. Del metal punk. Sì, loro sono stati contentissimi. Del nostro principale argomento di discussione sono gli Iron Maiden. Tra l'altro, soprattutto tra me. Senza questa cover, sì, insomma, sì, non vi conoscereste. Sì. No, ma noi ci conosciamo da tempi non sospetti, però ecco, per esempio, sia con Chris e con Gabriele, che peraltro è una persona cultissima, però parliamo solo di cazzate. Quindi ecco, parliamo fieramente di queste cose. Come giusto che si faccia, insomma. Però magari siete stati ma immaginavo questa cosa, che hanno visitato Mosca, hanno suonato ad agosto a Mosca, sì. Magari hanno trovato una temperatura più accettabile che magari suonare in una cantina di tufo, sì, sì, sì, che sta lì vicino casa, insomma, tutto sommato, dietro casa nostra, che magari ci introduce poi pure la domanda precedente, perché abbiamo parlato una domanda successiva. Perché abbiamo parlato poi di mondo e degli angoli più disparati della terra, magari parliamo un pochetto di casa adesso, di Viterbo, di quello che è, di quello che non è, di com'è nata, di quello che avete trovato, un po' quello che ho accennato all'inizio, e lo approfondiamo un pochino. Per ora andiamo avanti così. Vabbè, le cose nascono così, appunto, Cantina del Goio, questi sono i Placcaggio. Insomma, dopo un po' di racconti in giro per il mondo, siamo ritornati all'origine di tutto, che è, insomma, la Tuscia e l'area di Viterbo e dintorni. Questo era il pezzo dedicato alla Cantina del Goio dei Placcaggio. Insomma, ci volete raccontare un po' le vostre esperienze in loco? Viterbo, sì. Recentemente è uscito, ad opera di quell'animale del nostro batterista, proprio un libro che parla della scena punk hardcore viterbese dalle, insomma, dalle origini degli anni 90 fino che e continua fino a scena contemporanea. Viterbo è una città piccola, incredibilmente papalina per benista e ben pensante, nonostante sia una bellissima città per altri versi. E, però ecco, diciamo che dagli anni 90 ha sempre avuto una scena hardcore molto, molto forte. E c'è stato un buon decennio in cui i gruppi, insomma, di cui più rappresentativo, perché all'epoca era un gruppo viterbese, erano i Termidown, e presso allora altri gruppi, Razza a Parte, che sono tuttora in attività, in cui tra l'altro suona anche il qui presente Angioletto. Insomma, c'è stata una serie di esploati, di concerti, di dischi, di produzioni fatte, di etichette. Poi alcuni della vecchia guardia, tra cui sono anche io, qualcuno è un po' cresciuto, qualcuno purtroppo ha subito la repressione, quindi sono state diverse situazioni che hanno disgregato la scena per un lustro, per 4 o 5 anni. E poi ecco, c'è questa nuova generazione, che io continuo a chiamare nuova generazione, ma pure loro, insomma, stanno tutti scavallato quasi tutti la 25ina, quindi gli tocca pure a loro, calvizie, problemi vari. E che effettivamente, ecco, hanno ricreato un ambiente favorevole alla musica dal vivo, favorevole alle autoproduzioni, favorevole al punk, favorevole all'hardcore, tutto ciò che è musica organizzata dal basso, e posto più importante in cui si fanno concerti nella nostra area è proprio la cantina del Goglio, che è una cantina in tufo che sta a Betralla, vicino Viterbo. È un posto informale in realtà, cioè non è che c'ha una definizione precisa, non è un posto occupato, non è un... È una casa di uno, molto, molto provinciale tutto sommato, esatto. come soluzione. È una festa a casa dell'amico nostro. Sì, è una festa a casa dell'amico nostro, però che ha assunto connotati che... Sì, è una festa che si fa con 300-400 persone, a volte ci sono le negative approach, per esempio Robina così. E quindi no, pure l'importanza, insomma, di... Adesso si parla, insomma, è uscito il libro di Capò, diverse compilation, si parla dell'hardcore della Tuscia, insomma, però ricordiamo una scena creata, insomma, da un collettivo di persone che da zero. Sì, è una scena che originariamente negli anni 90 nasce da un gruppetto di amici che si vedevano all'ora di pranzo in piazza e poi su un muretto il pomeriggio. Adesso ecco, altre persone sono subentrate, qualcuno è rimasto, qualcuno è andato via, e poi ecco, ci sono queste, cioè il Tuscia, c'è stata clan, continuità, insomma, che ci ha dato una continuità, ha dato anche una svolta nuova e linfa nuova a questo ambiente. Ecco, adesso il collettivo è un po' più grosso, si fanno eventi grandi, insomma, si fanno veramente belle cose. Insomma, sì, sotto Natale vengono i Raw Power, tra l'altro, se c'è niente da fare. Ci siamo. Bene. Ci siamo. Rispetto poi a questo racconto, eppure ai racconti vari che abbiamo avuto riguardo appunto alla scena viterbese della Tuscia, da altre situazioni, altri momenti, quello che viene un pochettino alla mente, che sorge la domanda che sorge appunto rispetto poi a un lavoro che è stato fatto per tanti anni, che ha avuto degli alti e bassi, come dicevamo in precedenti puntate di 25 O'Clock. In realtà, appunto, tutta questa scena, questo movimento, questo numero di persone, che non so quant'è, probabilmente è variabile, no? Proprio in termini proprio di numero, in termini di quantità delle persone. Sì, è una creatura fluida. È una creatura fluida. Certo. Però è riuscita in realtà, secondo voi, al di là di tutto, al di là che non avesse alcuno scopo, diciamo, prettamente di organizzazione politica, ecco, questo non era nei termini, era appunto il potersi vedere, il potersi fare delle cose, aveva come finalità quello appunto essenzialmente poi di suonare e di trasmettere qualcosa suonando. Ecco, in realtà, giocando con questa roba qui, alla fine, all'oggi, potete dire che invece, forse questa è una domanda che andava fatta più a Capò, e magari avremo modo di farla. Possiamo dire che alla fine invece avete influito proprio sulla società della Tuscia, sui rischelli, sul modo di pensare, avete interagito pure con quelle che sono quelle situazioni così retrive di cui lui anticipava proprio all'inizio. Ma, o comunque vi siete posti come... Io il problema me lo pongo continuamente, come perché soggettività, ecco. Viterbo, ti darò la risposta che danno tutti i cubani quando gli chiedi come la situazione a Cuba, e nessun cubano, che sia di una certa tendenza, sia che sia un anticastista, ti dice che Cuba è facile. Dice sempre Cuba è complicato, tutti dicono così. Viterbo è complicato, perché Viterbo è una città che dopo anni e anni di Democrazia Cristiana, dopo anni di regno andreottiano, ha virato a destra fortemente, quindi noi abbiamo di fatto una presenza massiccia, insomma, di elementi di estrema destra, quindi insomma essere schierati a Viterbo ha una polarizzazione particolare, anche perché, non perché a Roma non ce l'abbia, anzi forse è maggiore, perché forse il gioco è anche più grosso, ma proprio perché il gioco è in un ambiente ristretto. Beh, oggi se ne sono bevuti parecchi a Roma, Ah, sì. Visto. Sì, ma poi mi ha sorpreso che si sono bevuti, cioè, chi era il capo? Era uno che so 30 anni che fa sta roba, insomma, lo sappiamo tutti. L'acqua calda. Ci hanno fatto i film, i telefilm, insomma, vabbè, a parte queste cose non... E ecco, a Viterbo tutto ciò assume una connotazione particolare, perché molto spesso quello contro, tra virgolette, tu cui sei schierato può essere tuo cugino, può essere uno che ci giochi a pallavolo, può essere... E quindi ecco, noi sì, sentiamo di... non parlo a nome di tutti, parlo a nome mio, credo che questa cosa abbia avuto, della Viterbo Hardcore che noi abbiamo fatto e creato negli anni, abbia avuto un'influenza, perché magari ecco, quando poi si fanno le iniziative in cui arrivano 200-300 persone a sentirsi in concerto, e forse sarebbero stati in un altro posto se non ci fosse stata questa cosa. Certo, poi questa che la ricaduta sia politica al 100% su quello che viene concerto, io non lo credo, e non era questa la non domanda, credo neanche lo sia al 20% purtroppo, però sì, sicuramente sì, ecco. Cioè, lo è politica nel senso più alto del termine, sì, proprio di sì, quello appunto dubbio. Di aggregare le persone, di metterle in comunicazione, di farle parlare, di eccetera. Sì, questo credo che sia, però non è mai un obiettivo raggiunto, parzialmente raggiunto, è sempre l'obiettivo è sempre in itinere, insomma, questa è una cosa che si tende a questo e non ci si arriva mai, cioè, si continua a lavorare, non è mai dato per scontato, ci proviamo con tutto noi stessi, perché ecco, in un posto incarognito politicamente come Viterbo questa cosa ha molto senso. Insomma, un dissenso che insomma voi trasmettete anche con musicalmente, insomma, un'energia diretta, insomma. Stavo pensando appunto a come nasce il dissenso, come viene percepito direttamente trovandosi in un posto più ristretto rispetto a Roma. Come è che tu a Roma, volendo, se sei nel quartiere giusto, se cambi quartiere, certe cose ti puoi illudere che non esistano, puoi non vederle per un giorno, due o tre o quattro se vuoi. A Viterbo no, perché a Viterbo frequenti lo stesso bar, quindi certe situazioni che non ti stanno bene tu ci sbatti la faccia tutti i giorni, quindi un po' impari a convivere, un po' sai che qualsiasi momento può essere un momento di confronto negativo, di scontro, quindi ecco, io trovo che sia pesante, cioè io sono cresciuto in una situazione in cui mi sentivo di fatto di appartenere a uno schieramento combattentistico nel senso più metaforico ma anche più alto del termine, a una razza a parte, senza dubbio. Olè. Sempre olè. Vabbè, l'aggancio era venuto naturale con la parte insomma a una razza a parte. Ce li abbiamo avuti ospiti mentre il professore annaffia lo studio. Con preziosa birra. Insomma, abbiamo il piacere di ripassare i Razza a parte. Quindi un saluto a tutti i pischelli dei Razza a parte. Ciao ragazzi dei Razza a parte. Ehi ragazzi, nell'anno 80 erano i Razza a parte. Il fatto che io allora, sono ragazzini. Anche se tanto. Io sono giovane, pure Stefanino è giovane, si mantiene giovanissimo. Sì, sì, sì. Ma pure gli altri. Dai, pure gli altri. Dai, tutti pure gli altri. Ci si mantiene giovani, giovani. E ci abbiamo pronto sul... Quindi un altro dischetto ce ne volete parlare, che è Non Repetere Est Hereditas. Yes, è un mini CD che abbiamo fatto nel 2012. Come pare 12, yes. Mi ricordo manco ho mangiato stamattina. 2012 non sbaglio. Beh, un disco in realtà un mini, ma è pieno di partecipazioni. Cioè abbiamo tre ospiti sul disco: Marcello Balena, un grande mio amico, sassofonista, professionista, una bestia. Sassofonista nel grind, yes. Ma come, esatto, è possibile? Si può fare tutto. Poi vabbè, Cinghione de Buffalo, un altro amicone, e Arif de Wormorot, che ha fatto un altro pezzo con noi in chiusura del disco. Mi sa che ci andiamo a sentire il pezzo di Cinghione. Che dici? Cinghione, sì, ce l'abbiamo pronto. Vai. Più un'altra cover, noi, cioè, ripeto. Ma sarà siamo... non me ne vogliono i compagni di Radio Possum, trasmissione antispecista del lunedì. Quindi bisogna farle la promessa. Cinghio, che dicevamo magari tornerà, però dopo che si è ammazzato il maiale. Sì, vabbè, no. Panini e porchetta, esatto. Sì, sì, è uno dei più grandi carnivori esistenti sulla faccia del pianeta. Dinosauretto. Sì, no, ma infatti non è a caso il titolo del brano. Immagino. Esatto. Ma sì, alla fine sì, è stato a caso, tutto... vero? No, non lo so, non lo so, però è stata figa sta cosa che hai detto. Vabbè, insomma, il pezzo al quale insomma partecipa Cinghio, dei Buffalo Grills e Hours of Penance e tutto il resto, yes. E delirio umano personale, e è Carne Bruciata, yes. Ce l'ascoltiamo a rotella, ce l'ascoltiamo insomma, poi dopo Carne Bruciata si prosegue col mini con una cover di chi? Negazione. Sì, come ce li chiamano sempre quando siamo all'estero. Negazione. Ancora oggi Negazione sono uno forse dei gruppi più conosciuti, giustamente e meritatamente, all'estero. Prima noi di fare questa cover, siccome per Negazione non è che ci piacciono proprio, come diceva Benigni, proprio li vogliamo proprio bene sessualmente, cioè gli abbiamo proprio chiesto il permesso e abbiamo scritto sia Mathieu che insomma gli altri membri Denegazione, ci hanno detto sì, potevamo tranquillamente fare una cover. Questa cover è Cannibale, che normalmente tutti fanno cover un pochino più molto conosciuta, infatti. Però ecco, a noi piaceva perché ha questo testo molto, molto acido sul cannibalismo come metafora insomma dell'esistente, e quindi abbiamo omaggiato questa volta davvero immodestamente Negazione, perché insomma i Negazione sono i giganti su cui noi siamo sulle spalle, noi siamo veramente dei nani a confronto, ma ci sono anche dei pezzi nostri nel CD comunque. strano, non l'avremmo detto. Vabbè, ci ascoltiamo questa doppietta carnivora. Vai. Ma sì. E quindi Carne Bruciata, a seguire la cover di Negazione, Cannibale, loro sono Eneid e qui 25 o'clock. Ah, no, vabbè, qui una lode da parte del professore, insomma, ha visto una scena grind. No, perché c'è, vabbè, non diciamo, no, ma potremmo anche svelare dei segreti nell'ambiente punk hardcore, vabbè. Cioè, no, l'abbiamo già mezzi detti, cioè, mezzi a livello dei gossip. Comunque mi ricorda quelle scene viste al concerto a San Basilio una trentina d'anni fa con i Truzzi Brother, insomma. Vabbè, qui attitudine grind, eh? Vabbè, anche un ottimo lavoro del dentista. Vabbè, si aprono le birre con gli incisivi. E andiamo ad ascoltarci qualcosa da un altro lavoro dei Nai, del Cuore della Bestia. Resistiamo a non passare una cover che ho adocchiato. Vabbè, insomma. Eh sì, perché pure qui ci sta un'altra cover, in realtà. Già. Basta, no, basta più. Cover. Per il decennale faremo un disco di cover. Solo forse. Cover. Però dal vivo riesce molto bene, no? Devo dire. Grazie. Una cover di Sepultura, Bayou Tech Kids Godzilla. Che non passiamo. E quindi il cuore della bestia. Chi è questa bestia? Ma la bestia è un po', diciamo, un po' il tutto quello che ci comanda, in realtà. Cioè, noi abbiamo fatto questo full length un po' sul discorso della manipolazione mentale, anche un discorso abbastanza blasonato, però l'abbiamo comunque affrontato. Infatti hai scelto un brano che è MK Ultra. Che cos'è MK Ultra? MK Ultra è stato un progetto della CIA, finanziato come tanti progetti della CIA per il controllo mentale. Tutte queste cose che uno le vede nei film di fantascienza o cospirazionisti, per cui ci sono persone che sono state pagate per frugare nella mente dei cittadini, in realtà poi sono tutte cose vere, consultabili e scaricabili. MK Ultra no, è un progetto, tutte cose come il progetto Blue Moon, che è quello che ha inondato di eroina gli Stati Uniti durante gli anni 60 per ammazzare il dissenso della generazione del 68. Sono MK Ultra è proprio un progetto di manipolazione mentale, e a quanto si vede per noi, insomma, per quanto riguarda l'esistente che ci circonda, forse è andato in parte, insomma, a buon fine. E in realtà il cuore della bestia, questa bestia che poi dopo alla fine questo nemico diventiamo noi. Esatto. I manipolati. E quindi MK Ultra, la seconda traccia dal Cuore della Bestia, loro sempre in Aid. Positions allowed for sleep, waking him if he moved while sleeping. outside stimuli, such as books, conversation, or news of the outside world. After 4 to 6 weeks, the prisoner would break down. E dopo MK Ultra ci siamo ascoltati La Preda. Vabbè, insomma, bravo, capo. Facile, eh? Ti piace vincere facile, eh? Comodo a casa. Scrivi i tuoi libretti. Secondo me loro stavano con uno smartphone acceso dove secondo me venivano anche istruiti in diretta. Ora di questo. Io lo immagino seduto su questa poltrona, davanti al camino con il bicchiere di brandy. Noi siamo come i ragazzi della Rai, siamo telecomandati da capo. Dicevamo della manipolazione mentale, capo, in realtà tutto. Ma noi ti vinceremo, capo. Ti resistiamo. Insomma, no, insomma, ritornava nelle nostre chiacchiere il tema delle cover. E qui il professore maligno come lo conoscete, insomma, no? Con il suo ghigno andava a chiedere, insomma, se questo discorso di inserire delle cover nei vostri lavori aveva un po' di furbesco, insomma, di richiamare pubblico oppure facilità, insomma, nel ricercarvi su internet, insomma, c'è questa volontà di allargare il vostro pubblico inserendo delle cover? Beh, sì, cioè il discorso non è proprio così. Era questo, dato che ormai non siete una band di un giorno, viaggiate da tanti anni e viaggiate in tutti i sensi e i dischi prodotti sono un bel po', insomma, però sarete senz'altro coscienti che la vicenda disco è una vicenda relegata ormai al di là del fatto che avete delle ottime produzioni e che appunto dicevate che le copie che fate normalmente spariscono abbastanza in fretta. Nel migliore delle ipotesi. Però il metodo più in cui si fruisce musica, si fruisce la musica oggi in maniera più massiccia, massiva, è quello di internet, essenzialmente poi di YouTube, diciamo, che forse è la cosa più popolare, capito, certo, che c'è. Su YouTube, quando vai a fare una ricerca, magari inserisci una traccia, un brano, oppure ti va all'occhio nel tuo girovagare, appunto, per l'intelligenza così un po' perversa di YouTube, e a un certo punto arrivi a qualcosa di famoso, però suonato da qualcun altro, ecco. Questa è la malvagità, la perversità poi di rapportarsi con la macchina, che in questo caso è il server di YouTube. Ma a parte il fatto che, cioè, mi ci metto dentro anch'io, però in parte, cioè, chi sente musica su YouTube proprio, cioè, io riesco a dire soltanto boh, cioè, ma come si fa? Cioè, magari tu puoi sentire qualcosa che ti può interessare e poi magari te lo vai a comprare, oppure perlomeno a cercare qualcosa è vero che poi tenere sulle mani, insomma, cioè, sentirlo solo su YouTube veramente non c'ha senso. No, vabbè, magari è facile, insomma, per nessuno infatti conosce Inhide, esatto, in questo vai caso a cercare il nome, in questo caso è utile, ovviamente, però insomma, il discorso non si deve fermare per quanto lì, sia, no? Perverso in tutto il discorso, insomma, perché sì, no, infatti dicevo, cioè, la cosa non si deve fermare lì, semplicemente questo è quello che dicevo. Vabbè, questo è un discorso mio. No, il punto è che no, la scelta delle cover viene direttamente dalla sala prove, cioè, non la vediamo così, perché comunque sono tutti i legami che ci abbiamo avuto noi col passato, tutti gli ascolti che abbiamo avuto sin da piccoli. E, perciò, ecco, noi le riproponiamo in nostra visione. Poi se qualcuno le trova su YouTube, bene, cioè, io sono solo contento perché se le sente, io sono contento che se le sente, alla fine è roba nostra, no? Però ecco, il discorso delle cover, della scelta delle cover e perché mettere su un disco è semplicemente perché è tutto un collegamento a quello che c'è stato nei nostri ascolti da fin da quando siamo stati piccoli, cioè tutto qua. Essenzialmente facciamo la musica che sappiamo fare, che ci diverte suonare, e se riproponiamo qualche brano, è che in media riproponiamo una disco di qualche gruppo, insomma, blasonato e famoso, è perché ci piace. Ecco, il nostro rapporto con internet né buono né cattivo, non siamo certo un gruppo che sta fissato a vedere quante visualizzazioni ci stanno su YouTube, tant'è vero che noi, insomma, per essere un gruppo autoprodotto facciamo un numero cospicuo di live all'anno, significa che noi giriamo e le nostre visualizzazioni sono molto basse, sono normali. Quando ci sta invece un gruppo che non gira per un cazzo e c'ha centinaia, migliaia di visualizzazioni, io non credo che sia del genere il marketing, io credo semplicemente che comprino le visualizzazioni su YouTube, cosa che noi non ce ne può fregare di meno, insomma. Noi siamo un gruppo chi a cui sente pezzi su suonare. YouTube, se no, li sente, gli piacciono bene, o se non piacciono, no, non ci mi sono sti cazzi. Magari ci sono queste dinamiche, no? Più hai centinaia di like oppure di visualizzazioni su YouTube, allora quell'etichetta lì ti può produrre, insomma, ci sono queste dinamiche perverse. Come dice Danny Glover in Arma Letale, sono vecchio per queste stronzate. Io non penso che sia tutto oro quel che luccica, insomma, dipende, cioè, io sinceramente se ci stanno dei video nostri che sono più cliccati, non posso paragonarli ai video un cazzo di adesso, insomma, manco dirti un nome per paragonare. Sì, cioè, per dirmi, siamo un po' i Justin Bieber del grindcore, questo non me ne importa, anche perché comunque stiamo sempre parlando di un genere musicale che è molto ostile, però non tutti lo possono andare a sentire. Però vi do questa questa chicca, no? Cioè, magari se voi fate un video di gattini con gattini fuffolosi e ci mettiamo sotto un pezzo nostro, diventano, insomma, i nuovi carcass. Poi nella nostra vita privata siamo quasi tutti gattari, quindi, insomma, sì, io ce l'ho parecchi dei gatti, io sono gattista. Potete fare un video di gattini fuffolosi. Va bene, insomma, ripartiamo da internet. Come non ve li dovete mangiare alla fine, Ah no, cioè, tutti baciucchiosi, allontanate cinghio dalle vicinanze, insomma, se li potrebbe ingoiare. Riferimenti su internet. Riferimento un attimo, come abbiamo appena detto, abbiamo il canale nostro YouTube, ci sta tutto quello che può interessare, video live, report live, tour, eccetera eccetera, pezzi dei dischi e tutto quanto. Noi spesso ci lo trovi anche non solo sul nostro canale, trovi anche pezzi nostri che vengono pubblicati del nostro Bandcamp, che fa tanto Bandcamp, eccetera eccetera, perciò su YouTube eccetera eccetera c'è tutto, Facebook ovviamente manco lo sto a dire. è tutto quanto. Però se ci venite a vedere dal vivo siamo più contenti, perché non vi dimenticate che internet è una cosa che prima si chiamava ARPANET, un progetto militare degli americani nato negli anni 60, quindi infatti noi preferiamo questa verde visione, cioè becchiamoci al posto, beviamo, suoniamo, una cosa, e suoniamo e beviamo insieme, insomma, ecco. Andateli a conoscere ai banchetti dopo i concerti, esatto. Scambiateci due chiacchiere, siamo belli come il sole, tra l'altro tanto non è impegnativissimo, perché sì, esatto. Suonano della musica ostile, fortunatamente io dopo i concerti mi cambio sempre contenti. Poi cioè, perfetto. Quindi pulito, pulito pure. No, e poi tra l'altro non durano nemmeno tanto, insomma, tutto ma si sì risolve nel giro di come abbiamo detto spesso, tre quarti d'ora al massimo, 40 minuti. Ma sì, cioè, compresi i preliminari a Zoccola, ecco, una mezz'oretta, insomma. Questa l'abbiamo detta, posso pure andare a casa. Cioè. E quando vi si può vedere prossimamente? Stiamo confermando delle date a fine mese. E adesso non abbiamo ancora la certezza 100%, però insomma, tra pochi giorni pubblicheremo tutto sul Facebook nostro. Ci faremo un Natale, un post Natale alternativo, esatto, suonando. Stiamo cercando di fare un Natale diverso. Altrimenti, se volete conoscerli, li troverete alla cantina del Goglio, mi pare di capire, a vedere i Hero Power. Sì, sì, sì, sì, a casa nostra. Quindi siamo, insomma, ci si conosce lì. E, che dice, professore? La chiacchierata, insomma. Vedi, credevo che avevamo, insomma, appena varcato la 25esima ora, la mezzanotte, invece qui, insomma, chiacchiere. Andiamo avanti. E quindi, vuoi. Io preparo una cosetta per un saluto, Yeah. Insomma, andiamo a chiudere questa chiacchierata con Inaid. E grazie di esserci grazie venuto a trovare. Come sempre, ragazzi. Grazie, raga. Un saluto a quel. Ormai io so di casa, vi porto il curriculum. Sì, tranquillo, va bene? Tranquillo, va benissimo. Assunto. E vabbè, un saluto a quell'essere lì. No, veramente, guarda. Va bene. Evitatelo, insomma. Tiriamo le orecchie noi. Dai, e noi salutiamo Inaid, salutando anche un altro gruppo. Yeah, dei grandi. Dei grandi, insomma, avete condiviso il palco recentemente? Sì, sabato scorso. Sì, a Ro. A Ro. Bene, yes. Bene. E loro sono da Latina, gli Zubbo. Noi ce li ascoltiamo dal loro ultimo lavoro. Spaccano, raga. Spaccano tutto. Dai.